This is for all love lost soon that miss their heart peace. Occhi spenti come nella notte dell'anima, vedere la luce di una stella dopo che lei è fuggita per sempre. Dopo ogni mia rima la vedo dura, la vedo dura. Vorrei la pace dell'anima come la tua, giuro. La invidio più del denaro, non sai quanto sono serio. Vorrei proprio correre col cuore libero, ma la vedo dura, la vedo dura. La vedo dura ogni mattina, ma poi mi prendo i coglioni in mano e corro contro mano nell'autostrada della vita, tutta in salita. Ma la vedo dura, la vedo dura. Vorrei amare una tipa al giorno, come era 20 anni la mia vita, per trovare la donna della mia vita, mettermi a posto, ma ormai ogni donna è imbiberita. Non esistono più sapori dolci, amaro in bocca ogni mattina. La vedo dura, la vedo dura. La mia prima ragazza era già il mio primo amore eterno, troppo sconvolgente e sublime, mi resterà per sempre un buco dentro. Trovare un nuovo amore uguale, la vedo dura, la vedo dura. Ragazze e donne di ogni estrazione e origine sociale, toccando anche l'oro, ma la donna che vorrei non esiste, è la combinazione di tutte loro, è l'amore impossibile, trovare una così. La vedo dura, la vedo dura, la vedo dura. Need a beautiful love, can look every one of my imperfection. Need a beautiful love, can look over every one of my imperfection. My imperfection. Occhi spenti come nella notte dell'anima, vedere la luce di una stella dopo che lei è fuggita per sempre. Dopo ogni mia rima la vedo dura, la vedo dura. Vorrei la pace dell'anima come la tua, giuro. La invidia più del denaro, non sai quanto sono serio. Vorrei proprio correre col cuore libero, ma la vedo dura, la vedo dura. La vedo dura ogni mattina, ma poi mi prendo i coglioni in mano e corro contro mano nell'autostrada della vita, tutta in salita. Ma la vedo dura, la vedo dura. Vorrei amare una tipa al giorno, come era 20 anni la mia vita, per trovare la donna della mia vita, mettermi a posto, ma ormai ogni donna è imbiberita. Non esistono più sapori dolci, amaro in bocca ogni mattina. La vedo dura, la vedo dura. La mia prima ragazza era già il mio primo amore eterno, troppo sconvolgente e sublime, mi resterà per sempre un buco dentro. Trovare un nuovo amore uguale, la vedo dura, la vedo dura. Need a beautiful love, can look every one of my imperfection. Need a beautiful love, can look over every one of my imperfection. My imperfection. Need a beautiful